Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza dal 1977, libera da padroni e pubblicità. La voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Ognuno e ognuna di voi può contribuire a farla vivere. Uno dei mezzi è la sottoscrizione sul numero di conto corrente postale 61804001 da intestare a Radio Onda Rossa, via De Volci 56 00185 Roma. Si può anche consultare il sito internet della radio, che è ondarossa.info. Sull'home page c'è la parte sostieni per la modalità PayPal. Siamo all'appuntamento con il cinema. Quest'oggi diversi ospiti. Dovremmo avere con noi Andrea Gambetta, presidente di Solares Fondazione delle Arti, coproduttrice del film Il Sale della Terra, in uscita in sala oggi, giovedì 23 ottobre. Mario Martone, regista del film Il Giovane Favoloso, uscito in sala lo scorso giovedì 16 ottobre. Antonella Greco, presidente dell'Art Doc Festival su Conversazioni Video 2014, festival di documentari su arti e architettura qui a Roma, la Casa dell'Architettura, in pieno svolgimento dal 20 al 24 ottobre. Sandra Lischi, co-direttrice della 24esima edizione di InVideo, festival di video e cinema oltre, a Milano dal 29 ottobre al 9 novembre. Stefano Finesi, dell'Associazione Culturale La Farfalla sul Mirino, sulla quarta edizione di A Qualcuno Piace Classico, appunti di storia del cinema, al Palazzo delle Esposizioni qui a Roma dal 28 ottobre al 19 maggio del 2015. Francesco Giuseppe Raganato, regista del documentario Looking for Khadija, presentato alla nona edizione del Festival del Film di Roma, in svolgimento qui a Roma per l'appunto fino al 25 ottobre. Bartolomeo Pampaloni, regista del documentario Roma Termine, anche questo presentato al Festival di Roma. E Marco Chiarini, co-regista del documentario Prima del Film, anche questo presentato qui a Roma. La scaletta la trovate sia sul sito internet della radio, alla voce Visionari, Radio Onda, trasmissioni Visionari, sia sulla pagina Facebook. Trovate in scaletta anche le uscite in sala di oggi, giovedì 23 ottobre, i nostri suggerimenti e indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, poi il link per ascoltare la puntata precedente, ma anche tutto l'archivio del 2014 e del 2013. Per comunicare con noi, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Potete ascoltarci sia in diretta radiofonica sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal computer, dal sito internet della radio, perché sulla homepage c'è l'opzione Ascolta la diretta. È con noi Sandra Lischi, co-direttrice della 24esima edizione di InVideo, Festival di Video e Cinema Oltre, a Milano dal 29 ottobre, quindi dalla prossima settimana fino al 9 novembre. Sandra, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti. Allora, manca ancora qualche giorno, 24 edizioni non sono poche. Intanto partiamo dalla storia di InVideo, Sandra. Sì, InVideo è nata nel 90, anni in cui si parlava molto di videoarte, c'erano moltissime manifestazioni anche in Italia, piccole e grandi, dedicate alla videoarte, e è riuscita poi a sopravvivere in tutti questi anni a una mutazione anche del fenomeno, a diminuzioni del budget, a oscillazioni di interesse da parte dei referenti, e siamo ancora qua. Questa edizione cosa propone? Intanto, quante opere, immagino da varie parti del mondo. Sì, c'è sempre tradizionalmente una selezione internazionale. Quest'anno abbiamo circa 40 opere da tanti paesi del mondo, che abbiamo suddiviso poi in sezioni tematiche, sono sempre poi intrecciate fra di loro naturalmente. Sì. Quindi si va dall'animazione a una rilettura in chiave documentaria di alcuni fenomeni planetari, si va dal ritratto d'artista, abbiamo per esempio un documentario su Bill Viola, a lavori invece di impegno poi civile, a ricognizioni storiche, a metamorfosi visive, lavori sulla musica, sulla pittura, insomma è veramente una panoramica delle innovazioni linguistiche ma anche tematiche. Senti, i formati sono anche questi differenti dai cortissimi ai medio-lunghi? Noi non diamo un'indicazione di lunghezza, prevalentemente sono lavori corti. Ci sono però anche lavori un pochino più impegnativi, appunto come questo documentario su Bill Viola che dura quasi un'ora, o come il lavoro di Chiara Cremaschi che è Indesiderabili, su una ricognizione in un campo di internamento durante la Seconda Guerra Mondiale con storie di donne e quindi ricostruzione della memoria storica. Sì. Quindi ecco, ci sono lavori un pochino più impegnativi anche dal punto di vista della lunghezza, ma la maggior parte è costituita da corti. Volevo chiederti, nel tempo la videoarte ha sviluppato dei propri canoni che la rendono riconoscibile? Grande domanda. La videoarte classica, diciamo, è anche circoscritta per certi aspetti a una stagione, però si è contaminata poi su, ha influenzato il cinema, ha influenzato il video musicale, è diventata molto diffusa l'arte della videoinstallazione, dell'ambiente sensibile, dei percorsi interattivi, quindi è cambiata proprio anche l'idea di videoarte, tant'è vero che in video abbiamo aggiunto il titolo Cinema Oltre, sì. Quindi è video e cinema oltre, quindi un oltrepassamento che ormai riguarda anche il cinema, quindi sì, il panorama si mescola, si sta ibridando, è anche interessante seguire questo tipo di evoluzione. Ecco, e a proposito di evoluzione, i rapporti con l'internet e la rete? Internet e la rete ormai sono per certi aspetti anche concorrenti dei festival, no? Perché sì. Molti lavori ormai si vedono in rete. Sì. Quello che noi cerchiamo di fare però è di isolare un po', di creare un momento di concentrazione e soprattutto di confronto, quindi la sala è un vecchio modello, quello della sala, che però consente di ritrovarsi tutti insieme a vedere qualcosa nelle condizioni ottimali, quindi sì. Con buona qualità di immagine ma anche di suono, e poi devo dire che in video consente quest'anno forse più che in altre edizioni tanti incontri, cioè quest'anno abbiamo quello che noi chiamiamo, con un termine forse di cui si abusa, gli eventi, gli approfondimenti, comunque sono davvero tantissimi, perché c'è una video installazione dedicata alla strage di Brescia, alla fabbrica del vapore, ci sono molti incontri con autori, c'è un focus sul Festival di Lisbona di videoarte, che è veramente un festival molto molto affascinante, c'è una serata musicale con Enrico Intra, quindi ci sono veramente occasioni dal vivo, diciamo così, che la rete non consente. E avete anche un archivio che sia fruibile del festival? Sì, l'archivio si trova nella nostra sede alla Fabbrica del Vapore ed è ormai un archivio gigantesco, forse uno dei più ricchi in Europa, dedicato proprio alla videoarte, alla sperimentazione, al nuovi linguaggi del cinema documentario, al rapporto fra musica e video, ed è consultabile, infatti è consultato da studiosi, da studenti, da persone interessate, da artisti, quindi siamo molto orgogliosi di questo archivio che pian piano stiamo ovviamente digitalizzando e su cui stiamo facendo un grosso lavoro anche di confronto con gli autori per la messa in rete poi di alcune di queste opere. E concludiamo dando i riferimenti per quanto riguarda i luoghi e le date. Sì, allora i luoghi sono la Fabbrica del Vapore per l'installazione che inaugura il festival il mercoledì 29, quindi Fabbrica del Vapore, le proiezioni si svolgono dal 29 alla domenica 2 allo spazio Oberdan pomeriggio e sera. Poi ci sono le lezioni all'Istituto Europeo di Design, lo IED, che sempre collabora con noi, e poi novità di quest'anno il Piccolo Teatro, dove ci sarà un incontro con Giuliano Scabia, grande maestro del teatro italiano, giovedì 30 ottobre pomeriggio, e Giuliano Scabia presenterà un suo lavoro, un cinepoema e altri suoi lavori che poi vengono anche replicati la sera, fatti vedere la sera allo spazio Oberdan. Quindi è un po' una geografia di tanti luoghi, ne siamo molto contenti e consigliamo a tutti di vedere sul nostro sito poi gli orari precisi delle varie cose, dei vari incontri che si svolgono. Il sito è www.mostrainvideo.com. Benissimo. Sandra, un abbraccio e a risentirci alla prossima. Grazie, a presto. Ciao. Ciao. Sandra Lischi, co-direttrice della 24esima edizione di InVideo, Festival di Video e Cinema Oltre, a Milano dal 29 ottobre al 9 novembre. Dovremmo essere in collegamento con Francesco Raganato. Eccomi. Ci sei? Oh, regista del documentario Looking for Khadija, presentato alla nona edizione del Festival del Film di Roma. Ci sei, Francesco? Benvenuto buongiorno, a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie. Allora, una storia che mi incuriosiva molto, raccontacela un po' in breve a chi ci ascolta. Guarda, in breve è l'avventura di una troupe che riesce, di una troupe cinematografica composta da me, dal produttore Andrea Paterno e dallo sceneggiatore Alessandro Caruso, che riesce, organizzando un casting per trovare un'attrice, riesce a entrare in uno dei paesi più difficili dell'Africa, che è l'Eritrea, un paese che è chiuso ai confini chiusi da una dittatura più che trentennale, e quindi noi riusciamo a entrare in questo paese usando l'escamotage del cinema. E in realtà poi noi siamo andati veramente a cercare un'attrice per un film che vogliamo fare, un film che narra la storia di Amedeo Guillier e di questa giovane Khadija, la figlia di un capovillaggio eritreo, che è una storia d'amore avvenuta durante la Seconda Guerra Mondiale, su cui noi vorremmo fare un film. Quindi noi abbiamo girato tutta l'Eritrea cercando l'attrice protagonista di questo film e abbiamo intervistato tantissime ragazze tra i 25 e i 35 anni alla ricerca del ruolo principale di questo film. Così facendo abbiamo avuto un ritratto tutto al femminile e anche molto molto intenso di un paese a noi sconosciuto, quando in realtà l'Eritrea è legata culturalmente, storicamente all'Italia, essendo stata colonia italiana, appunto, quindi dovrebbe essere un paese a noi che noi dovremmo conoscere molto molto di più. E quindi con questa occasione siamo riusciti a fare un racconto inedito. Sì. Senti, questa storia che dava l'ispirazione al film, come ne siete venuti a conoscenza? La storia di Amedeo Guillier, in realtà, di Khadija, in realtà è una storia che già circolava molto negli ambienti delle produzioni del cinema italiano, però essendo un film in costume, un film di guerra, un film molto costoso da fare, ancora nessuna produzione era riuscita a mettere in piedi il progetto di film, si era sempre fermato allo stadio di scrittura. Il nostro produttore Andrea Paterno conosceva la storia ed è innamorato del personaggio di Amedeo Guillier e l'ha voluto raccontare in questo modo, perché non era possibile appunto non raccontare un personaggio così, così grande. La storia di Amedeo Guillier è una storia archetipica, è un eroe veramente, perché è un ufficiale italiano che per non lasciare l'Eritrea nelle mani degli alleati che stavano avanzando all'indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale, rinuncia al suo ruolo di ufficiale dell'esercito italiano, rinuncia addirittura in tempi non sospetti alla fede cattolica per abbracciare quella musulmana, si mette a capo di un gruppo di guerriglieri eritrei e difende l'Eritrea dall'assalto inglese per lunghissimo tempo, quindi diventa effettivamente l'eroe nazionale eritreo. Quindi c'è una targa dedicata ad Amedeo Guillier ad Asmara, dove si dice che Amedeo Guillier è l'eroe nazionale dell'indipendenza eritrea. Mm-hmm. E poi c'è stata vista, perché di solito gli italiani quando si pensa alle gesta italiane in guerra si pensa sempre più a sconfitte, a ritirate e non a gesti eroici. Mm-hmm. Senti, questo è stato il pretesto, e che situazione avete trovato in un paese che, come dicevi appunto, le cui frontiere sono chiuse da tempo ed è sotto una dittatura? Guarda, la dittatura, il regime eritreo, per quanto ne abbiamo potuto avere noi un contatto, è molto, quasi molto nascosto, non c'è un clima di oppressione o di terrore. Sì. Cioè, la vita scorre tranquillamente in Eritrea. Non c'è, c'è povertà, ma non c'è il degrado, tutto è molto molto dignitoso. Purtroppo però spesso non si sa, oppure non viene trasmesso in maniera adeguata dai mezzi di informazione, che la maggior parte, un numero molto elevato delle persone perché attraversano il Mediterraneo sui barconi è proprio di nazionalità eritrea, poiché in Eritrea c'è un stato di povertà diffuso, e poi c'è soprattutto un servizio militare che dura per tutta la vita, per cui tu o scappi oppure sei costretto a fare quello che lo Stato ti impone di fare, semplicemente, quindi non hai fondamentalmente delle libertà individuali. Per questo molta gente cerca di scappare. E le persone che avete, con cui avete interagito, cosa vi hanno espresso? Ovviamente non diciamo, una volta fatti i casi, noi abbiamo cercato, il tema del film è quello appunto del documentario, è quello di fare il film. Sì. Ovviamente quando noi facevamo i casting, facevamo le domande alle ragazze, inevitabilmente c'erano delle domande sulla loro vita privata, sulle loro aspettative soprattutto, e devo dire che è uscita fuori una generazione di ragazze molto giovani, il ritratto di una generazione di ragazze molto giovani che hanno una voglia matta di riscattare la propria vita e il proprio paese, quindi c'è una grande voglia di cambiamento, però appunto c'è molta paura perché non si sa quello che accadrà quando il regime a un certo punto finirà. Quindi c'è molta paura, però c'è veramente voglia di riscatto e cambiamento. Credo che questi gli anni a venire in Eritrea saranno cruciali, perché credo, adesso non vorrei dire una stupidaggine, però credo che il dittatore in questo momento sia molto male, abbia dei problemi gravi di salute, e quindi non si sa quello che accadrà a breve, nel momento in cui questo dittatore non ci sarà più. Oh, anche qualche giorno fa, qualche puntata fa, in occasione dell'uscita in sala del documentario Io sto con la sposa, e l'escamotage del cinema che supera le frontiere torna anche qui. Mi sembra una figura, un immaginario piuttosto affascinante. Sì, diciamo il metalinguaggio in questo caso è stato quasi alla base di questo film. Senza il chiaristello della troupe cinematografica che entra in un paese, non ci sarebbe potuto essere questo documentario. Devo dire che in fase di scrittura e poi in fase di ripresa, io dal mio punto di vista di regista ho ragionato molto se entrare fisicamente nel film oppure no. Infatti in un primo momento avevamo pensato di non entrare nel film, poi in realtà abbiamo visto che forse era il caso di farlo un po' solo per chiarezza, per completezza del film stesso, un po' perché poi appunto questo doppio registro non era male, anche ci sono molti siparietti divertenti anche che ritraggono noi alle prese con un paese difficile dove per esempio non esiste un carrello per fare una carrellata, oppure bisogna rimediare gli attrezzi appunto per fare o le luci, per fare le inquadrature in maniera un po' non convenzionale, diciamo. Senti Francesco, che destino ci sarà per questo documentario, per questo lavoro? Non ho capito, scusami. Quale sarà il destino di questo lavoro? Guarda, il destino di questo documentario sarà prettamente televisivo, è stato prodotto da Rai Cinema, quindi immagino che andrà presto su uno dei canali Rai, credo Rai 5, ma non vorrei dire, non ho ancora la certezza della destinazione. Purtroppo i documentari al cinema hanno vita molto difficile e molto breve. Sì, sì. Va bene, allora tienici informati e ne daremo conto, insomma. Certo. Grazie mille. Un abbraccio e in bocca al lupo. A presto. Grazie mille. Ciao. Ciao. Francesco Raganato, regista del documentario Looking for Khadija, presentato alla 9ª edizione del Festival del Film di Roma, in svolgimento fino al 25 ottobre. È con noi Andrea Gambetta, presidente di Solares Fondazione delle Arti, coproduttrice del film Il Sale della Terra di Wim Wenders, in uscita in sala oggi giovedì 23 ottobre. Andrea, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a voi anche per questa intervista. Non solo, abbiamo dedicato al film anche la copertina della trasmissione di oggi con una foto di Salgado in bianco e nero con delle donne indios dell'Amazzonia mentre si stanno cospargendo il corpo di quella polvere rossa per i loro rituali. Insomma, mi sembrava un omaggio doveroso a un film che considero, te lo dico spassionatamente, tra le cose migliori uscite quest'anno al cinema. Guarda, grazie mille, perché si fa sempre più fatica a mettere insieme e a sostenere quello che una volta si chiamava il cinema d'autore. E questo è stato un progetto che abbiamo fortemente voluto proprio anche per il valore non solo intellettuale e culturale, ma anche umano dei personaggi che abbiamo coinvolto. Come è partito tutto? Ma guarda, noi come Solare Fondazione delle Arti facciamo molto spesso dei progetti di crossover, quindi collaboriamo con Wim Wenders dal 97 e circuitiamo le sue mostre fotografiche. E nel 99 invece avevo avuto la fortuna di conoscere Sebastiano Salgado perché avevamo fatto a Parma un progetto sulle celebrazioni verdiane. E in quell'occasione era appena nata proprio, era il periodo in cui era appena nato l'Istituto Terra, in cui in qualche modo ero rimasto affascinato da questa sorta di così inversione di tendenza, e già allora avevano piantato quasi 1 milione di piante che con l'umidità della Mata Atlantica erano cresciute fino a 3-4 metri. In più, vedendo le foto che ritraevano questo territorio ormai deforestato e inaridito, ritornare alla precedente verginità con gli animali, gli insetti, gli uccelli, e fino ad arrivare alle scimmie e ai puma che ritornavano a popolare una zona del pianeta che era stata deforestata, ero rimasto molto affascinato anche dalla volontà di quest'uomo, che non era solo un grande fotografo che mi aveva regalato così delle emozioni fortissime con le sue immagini, ma anche un ecologista convinto che sperimentava e investiva su un progetto molto concreto che dà da lavorare a più di 150 persone sulla possibilità di una seconda chance per la sua terra, insomma. Quindi Wenders ci aveva raccontato che era uno dei fotografi preferiti, di cui amava molto il lavoro. Abbiamo organizzato questa cena a Parigi, in cui era presente anche appunto Culiano, che è il figlio cineasta di Sebastião, e lì è partita l'avventura, insomma. Questo è stato un po' l'inizio di un progetto che, insomma, ha preso molto tempo, ma che devo dire ci ha dato grande soddisfazione, insomma, non solo al Festival di Cannes, ma a San Sebastian e adesso all'uscita che abbiamo avuto lì a Roma. Sì, sì. Pensa che di Salgado ho appesa in casa da diversi anni una delle foto proprio che compare all'inizio del film nelle miniere brasiliane, insomma una foto che sembra ritrarre dei gironi infernali. Mi sembra anche piuttosto indicativo, molto umano, il percorso di Salgado da appunto testimone di tragedie ed esodi legati a guerre e fame, povertà e carestie, e a qualcosa che si spezza dentro, ma anche una voglia, una vitalità che lo porta a fare scelte che lo portano a costruire qualcosa. Come dicevi prima, la riforestazione, se non sbaglio, è arrivato a 2,5 milioni di alberi ripiantati, ha ricostruito su diversi ettari di quella tenuta una foresta che era scomparsa. Ma guarda, io credo che, ripeto, ormai è diventata un'amicizia che ormai ha quasi 15 anni, e io l'ho visto al lavoro anche in Spagna, dove abbiamo fatto un altro progetto. È una persona, e credo che questo traspare nel ritratto che ne ha fatto Wim con Giuliano, traspare un percorso che è stato di conoscenza mai superficiale, e anche sofferto, nel senso che c'è quella frase dell'Ise in cui lui dice: io le foto più belle non le ho scattate perché mi sono messo in un angolo a piangere. È una cosa vera, nel senso che lui anche alcune volte è stato accusato di speculare di una sorta di estetismo della miseria. Io credo che invece il tentativo suo sia sempre stato quello di raccontare al mondo anche le brutture dell'umanità, perché la denuncia in qualche modo porti a non far più succedere alcuni fatti, ma che invece si ripetono ciclicamente nella storia. E quando lui nel film dice: avevo perso, rispetto alla sua permanenza in Ruanda con gli immigrati e le varie migrazioni che poi sono state con Exodus uno dei progetti che ha maggiormente insomma toccato nella sua esperienza di fotoreporter. Dice: io avevo perso l'anima, non credevo più in niente, e questa cosa invece dell'Istituto Terra, credo che attraverso la natura, attraverso un tentativo di trovare che poi vale per ognuno di noi, insomma, una sorta di messaggio di speranza, di seconda chance, di possibilità, sia una cosa che ci vorrebbe più spesso ai giorni nostri, insomma, ce ne fossero, ecco, di esperienze di questo genere. Quindi credo che sia davvero un uomo che ha pagato con l'esperienza diretta, lui non è di quei reporter che vive in albergo e fotografa dall'alto di un palazzo, lui è lì in mezzo alla gente, e questo secondo me si vede e si nota anche un percorso che veramente tocca la pelle delle persone, perché lui era lì a essere testimone del nostro tempo, insomma, quindi credo che questo sia uno dei suoi aspetti più interessanti. Sì. E un percorso molto interessante anche quello di Wim Wenders nelle sue ultime opere. In Pina Bausch mi aveva personalmente, parlo per la mia piccola esperienza, avvicinato a un mondo come quello della danza. Pina Bausch in una maniera ha valorizzato al massimo quell'esperienza e l'ha resa fruibile a tutti, e idem anche per la grande storia di un grande fotografo come Salgado. Ma guarda, l'idea di partenza che avevamo era proprio questa, cioè come un regista a sua volta appassionato di fotografia, perché poi anche nelle immagini che Wim Wenders realizza c'è una forte connessione con quello che poi va a raccontare nei suoi film, ci fosse un confronto con un racconto che attraverso il documentario parla della vita reale, però attraverso gli occhi di un'interpretazione rispetto a chi in uno scatto deve raccontare un momento, fare un freeze di quello che è la realtà, ecco, che ci circonda. Questo in una sorta di relazione che poi ha portato anche in parti che poi purtroppo anche per questioni di scelta ha portato poi anche agli amori, agli artisti che hanno ispirato questi due artisti, insomma. Quindi credo che Wenders poi, rispetto ai documentari, se si pensa anche solo a Lampi sull'acqua, a Tokyo Ga, insomma, poi a Buena Vista Social Club, sono poi sempre omaggi di un artista che ha un profondo rispetto dell'autore che va a ritrarre, e qualsiasi sia la disciplina artistica che questo autore predilige, però cercando di farne un ritratto molto attinente con la personalità vera dell'artista di cui si sta parlando. E secondo me in questo caso con Sebastiano Salgado è stato davvero un misto di rispetto e omaggio ad un'arte come quella della fotografia, che di cui Sebastiao è davvero uno dei massimi interpreti. Sì, sì. Andrea, da oggi nelle sale in quante copie esce? Guarda, escerà in una quarantina di copie, e poi vediamo un attimo, insomma, però penso che per un documentario è una situazione, insomma, che è già un buon inizio, sì, insomma. Poi abbiamo delle buone sale per adesso, quindi siamo convinti che possa essere certo, lo spettatore del documentario in Italia è uno spettatore che va ancora coltivato e va in qualche modo ampliato a una platea, però siamo ottimisti perché, insomma, comunque i nomi coinvolti sono molti, e teniamo conto, insomma, che anche Sebastiao, anche attraverso l'opera che ha fatto Contrasto di promozione del suo lavoro, è uno dei fotografi più amati, più collezionati anche in Italia. Sì. Andrea, ancora complimenti, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie mille anche a voi, arrivederci. Ciao. Andrea Gambetta, presidente di Solares Fondazione delle Arti, coproduttrice del film Il Sale della Terra di Wim Wenders, in uscita in sala oggi giovedì 23 ottobre. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il giovedì dalle 14 alle 15. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Ed eccoci con Bartolomeo Pampaloni, regista del documentario Roma Termini, presentato alla nona edizione del Festival del Film di Roma. Bartolomeo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, per chi ci ascolta, diciamo subito, cos'è Roma Termini, di cosa si parla? A Roma Termini è un piccolo strano film che ho girato da solo per 4 mesi alla stazione Termini. È formalmente un documentario, ma in realtà ha tutta la struttura di un film classico, nel senso che si seguono la vita quotidiana di quattro persone, quattro senza tetto, che a stazione Termini non ci passano come tutti noi, ma ci vivono invece. Questo è in essenza il film. L'idea com'era venuta? L'idea era venuta perché avevo la curiosità di raccontare la vita di strada dall'interno, cioè senza il solito sguardo un po' pietistico, un po' retorico che spesso i media utilizzano per raccontare queste persone, che poi tra l'altro, ecco, anche raramente sono comunque prese in considerazione. Quindi la mia idea era quella di dire: faccio un film non su i senza tetto, sui clochard, ma faccio un film con queste persone, e per questo ho deciso di non scrivere nessuna sceneggiatura, ma di lasciarmi guidare da loro stessi. Quindi io, dopo aver individuato i miei personaggi, ecco, con loro li ho seguiti, e giorno dopo giorno il film si è costruito man mano che la vita di tutti i giorni andava avanti e che gli avvenimenti succedevano, e che quindi ho potuto riprendere le cose sul nascere. Quindi per questo dico anche che non si tratta di un documentario classico, nel senso non ci sono interviste, tutto succede davanti agli occhi dello spettatore nel momento in cui stava succedendo. Senti, che realtà si vivono queste quattro persone anche in rapporto al mondo che li circonda? Allora, queste quattro persone sono tutti e ognuno ha una storia singola e particolare, però tutti e quattro sono accomunati, diciamo, da un dolore che si portano dietro per dei traumi, per degli avvenimenti della loro vita, e che li hanno portati a ritrovarsi a Termini. C'è chi tra di loro è propriamente un homeless, cioè un senza tetto, che quindi ha fatto questa scelta, come Angelo, che ha vissuto per 20 anni accanto a Santa Maria Maggiore. Oppure c'è chi, come Gianluca invece, per esempio, che è stato un ladro, ha fatto rapine, adesso si sta nascondendo a Roma Termini, e usa Roma Termini come appunto un luogo di fuga da Milano, dove ha sempre vissuto. Oppure c'è chi, come Stefano, ha perso il lavoro da infermiere pochi mesi prima dell'inizio delle riprese, che quindi adesso si trova per strada. O chi infine, come Tonino, ha vissuto un divorzio difficile, e non avendo più rapporti con la famiglia d'origine, che lo ha ripudiato, si trova piano piano in preda alla depressione, e dopo essere stato buttato fuori dal centro d'accoglienza in cui era stato inizialmente preso, si trova a vivere per strada. Quindi ognuno con la sua storia, tutti comunque sulla sottile linea che divide la vita di noi, tra virgolette, persone normali, diciamo, dalla società, facenti parte di una società, alla vita da invisibile, ecco. Quindi si racconta questo passaggio della linea, questa paura di cadere. Questo è ecco, l'altra domanda era quella che ti facevo era il rapporto invece con la realtà che li circonda, cioè la stazione e le persone che attraversano la stazione. Sai, i rapporti sono pochi, nel senso che la stazione viene usata per nascondersi fondamentalmente, cioè la stazione è il luogo dove paradossalmente, essendo il più frequentato, è anche quello dove ci si può meglio nascondere, cioè le persone che ci passano sono forse ad alcuni, come da Stefano che chiede l'elemosina, usati o comunque per avere un minimo di sostegno, ma per esempio Tonino, che non chiede l'elemosina, alla stazione ci sta semplicemente perché c'è più caldo durante l'inverno e c'è un tetto dove ripararsi, perché poi la stazione, a parte quelle due associazioni che operano, che ogni tanto qualcosa cercano di fare, ma comunque troppo poco, è comunque un luogo inospitale, nonostante sia forse l'unico in cui possono stare. Comunque la polizia li manda continuamente via, non possono dormire durante il giorno, ci sono controlli sempre più frequenti, quindi diciamo è una casa impersonale questa stazione, in cui rifugiarsi. Però non è che se interagiscono queste persone, interagiscono tra di loro, ci sono magari uno vende un cellulare a 5 euro a un altro che ha avuto, oppure si chiede, si va a prendere un caffè insieme con i 2 euro che si sono fatti, però non c'è un rapporto vero di scambio tra le persone che la stazione la usano come noi per andare a prendere un treno e chi invece la stazione ci vive. Sono due mondi paralleli che raramente si toccano. Sì, sì, sì. Roma Termini, ci sarà modo di vederlo prossimamente in televisione o in sala? Allora, questo è, possiamo fare un appello, nel senso che stiamo cercando un distributore, quindi se qualcuno è interessato, noi siamo qua. Per adesso si può vedere stasera al Cinema Barberini, in Piazza Barberini alle 18, che è l'ultima proiezione ufficiale del festival, a cui io sarò presente, e poi si può vedere il 30 di ottobre a Piazza Vittorio alle 20. Ci sono delle giornate di cinema organizzate da Agisane Clazio e sarà una proiezione gratuita, quindi alle 20 a Piazza Vittorio il 30 ottobre, se caso di pioggia 20 e 30 al Cinema Royal. E dei riferimenti internet per quest'opera? Per adesso c'è un trailer online su Vimeo, potete cercare Roma Termini trailer, c'è un trailer e poi forse qualche estratto che è stato pubblicato sul sito del festival. Per adesso non c'è molto di più, da breve pubblicheremo qualche altro estratto probabilmente dei personaggi del film. Benissimo. E poi speriamo comunque almeno a Roma di riuscire ad avere un'uscita in qualche sala, come il Cinema Aquila, come queste sale qua, quindi spero che qualcuno mi contatti. Ecco. Ok, noi ci manteniamo in contatto e ci fai avere insomma informazioni. Bene, molto volentieri, vi ringrazio per aver parlato di questo film. Bartolomeo, un abbraccio e a presto. Buona giornata a voi, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Bartolomeo Pampaloni, regista del documentario Roma Termini, presentato alla 9ª edizione del Festival del Film di Roma. Marco Chiarini, regista, co-regista del documentario Prima del Film, presentato qui al Festival, la 9ª edizione del Festival del Film di Roma. Marco, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Salve a tutti. Salve a tutti. Allora, Prima del Film, cosa significa Prima del Film? Allora, è il titolo di questo documentario che con Mario Sessi abbiamo girato per raccontare dalla viva voce di Bellocchio Virgì e Ettore Scola quel momento creativo nella produzione di un film in cui il regista deve riuscire a concretizzare visivamente il più possibile ciò che nella sceneggiatura è stato scritto. Quindi quando la storia c'è più o meno, ma bisogna cominciare a far capire ai collaboratori o molto spesso a se stessi alcune pieghe della storia, alcuni particolari del carattere certe volte dei protagonisti, o di un vestito, di un accessorio. Ecco. Quindi qualcosa di un po' diverso dallo storyboard. Esatto, nel nostro caso è assolutamente quasi l'opposto. Mentre lo storyboard è usato soprattutto in America, anche in Italia, soprattutto in pubblicità, per soprattutto capire le difficoltà produttive, ovvero allora in questa scena, in questa parte in computer grafica, sono 10 comparse, 5 cavalli, servono queste cose, e soprattutto nelle scene d'azione, dove bisogna girare in tanti e in poco tempo, eccetera. E questo in America, appunto, la tipologia di film è molto usato. Alcune volte con alcuni registi, come nel caso di questi tre o come nel caso del più famoso Fellini, si ricorre al disegno per appunto previsualizzare qualcosa che è più vicino alla poesia, al tratto poetico di una scena, di un'illuminazione, di uno sguardo, che quindi con il disegno può arrivare più facilmente anche agli altri. Ecco, citavi Fellini, che a livello di immaginario è l'esempio che più mi viene in mente immediatamente rispetto a questa storia. Mi sembra anche un punto di incontro tra un'altra, l'arte del disegno, della pittura, e il cinema. Sì, assolutamente, perché sì, il cinema ha in comune con l'arte visiva, con il quadro, il fatto che hanno tutte e due una cornice quadro, un'inquadratura, quindi una porzione di realtà che viene circoscritta. E poi il cinema, tranne pochissimi, rarissimissimi casi, è comunque immagine in movimento, raramente è solo audio, in certi casi per video sperimentali, però ecco, comunque abbiamo a che fare per la massima parte con un'impronta e un'impostazione che è visiva. Dopo ovviamente c'è l'audio, c'è il sonoro, c'è la musica, però ecco, con il disegno, diciamo, ci può essere un primo approccio veloce, rapido e certe volte preciso a quello che succederà successivamente. Senti, qual è stato lo stimolo per iniziare questa storia, questa avventura? Ecco, questo è, come disse Coltale, una bella domanda, perché io sono molto molto molto legato a questo passaggio, diciamo, a questo momento creativo. Io, per produrre il mio film L'uomo fiammifero, ho addirittura messo in vendita questi disegni, gli acquerelli, le foto, tutto quel materiale preparatorio che avevo organizzato e preparato per il film, proprio perché volevo, era l'unico modo per me in quel momento di trovare un finanziamento, dei soldi, eccetera, che poi, come fa ad esempio Cristò, l'artista che impacchetta i ponti, le isole, eccetera. E quindi è un ambito, un aspetto che mi ha sempre incuriosito, perché comunque mi sono sempre chiesto: ma come si fa a comunicare al direttore della fotografia, ad un attore, allo scenografo, qualche sottile sfumatura di quello che io ho in testa, o che ha in testa il regista? E molti utilizzano le foto, molti si fidano, e altri, come nel mio caso, ma soprattutto nel caso delle persone intervistate, si affidano al disegno. Ecco, come l'altra curiosità, visto l'argomento, è come l'avete strutturato il documentario? Il documentario è stato strutturato in prima battuta in maniera molto, come, non tanto semplice, ma quanto lineare e ortodossa. Siamo andati con 3 telecamere nello studio, nelle case dei nostri protagonisti, quindi nello studio di Virgia, a casa di Ettore Scola, o nello studio di Bellocchio, e abbiamo con 3 telecamere girato contemporaneamente un'intervista lunga, normalmente un'ora e mezzo. Ecco, nell'intervista ad esempio la parte di Mario Sesti, perché siamo in 2 a firmare la regia, ma un'esperienza che è andata ottimamente, proprio perché siamo riusciti a dividerci i compiti in maniera perfetta. Ecco, ad esempio, il suo ruolo, il suo compito all'interno di questa coppia creativa era quello di intervistare e portare avanti la parte, diciamo, strutturale del racconto, mentre a me era il mio compito era quello di impostare visivamente, appunto utilizzando queste 3 telecamere, la narrazione in sé per sé. Marco, dove sarà possibile vederlo dopo il festival? Allora, oggi alle ore 18 o'clock in the afternoon, così ci sentono da Londra, lo sanno, alle 18 al Maxi, a Roma, 18 al Maxi, e ingresso gratuito e proiezione all'interno di questo Wild Next Cinema, all'interno della programmazione del Festival del Cinema di Roma. E dopo il Festival di Roma? E dopo il Festival di Roma, vediamo, in sala ci saranno persone, già lo sappiamo, che sono interessate per un'eventuale distribuzione, una proiezione in altri luoghi. Secondo me è un tema, è un racconto che potrebbe entusiasmare e incuriosire, perché poco battuto, se non per Fellini, ecco. Bene Marco, allora un in bocca al lupo, ricordiamo Credi. L'appuntamento di oggi alle 18 al Maxi, a risentirci presto. Grazie a voi per la vostra premura nel dare spazio a questo lavoro. Grazie, ciao, e a presto. Ciao. Marco Chiarini, regista del documentario Prima del Film, presentato alla 9ª edizione del Festival del Film di Roma. Antonella Greco, presidente di Art Doc Festival, su Conversazioni Video 2014, festival di documentari su arte e architettura che è in pieno svolgimento alla Casa dell'Architettura qui a Roma fino al 24 ottobre, cioè domani. Iniziata il 20, Antonella, tanto ben ritrovata su queste frequenze. Buongiorno. Come sta? Bene, bene. Tu? Abbastanza bene, c'è un po' di macello perché sono in facoltà, quindi però spero che si senta lo stesso. Sì. Allora, quali sono le caratteristiche di questo festival, diciamo, per chi ci ascolta? Beh, le caratteristiche sono quelle note, è un festival piccolo ma di altissima qualità, me lo dico da sola, è stata da tre persone, da Lia Polizzotti, Benedetta Nervi e da me, e sostenuto dal crowdfunding quest'anno, che si occupa di arte e di architettura con bellissimi documentari. I primi tre giorni sono stati giorni con documentari veramente eccezionali. Le Visionnaire di Julien Donadat, che ha parlato della utopia degli anni 60 e 70, cose buffissime, case in volo, architetture mai viste, anche utopie. Poi sempre il primo giorno c'è stato Niki de Saint-Phal, un grande mostro al Grand Palais e un personaggio incredibile che viene lasciato parlare da solo, quasi esclusivamente, senza, con pochissimi interventi delle riviste che sono Anne Julien e Louise Faux-Foret. E poi ieri invece è stata la giornata, l'altro ieri è stata la giornata delle utopie realizzate, quindi il Corviale e due interessantissimi documentari su due realtà ex sovietiche, le stesse realtà, due grandi documentari sull'architettura moscovite degli anni 20, come il Narconfin di Mosè e Ginzburg, che vengono lette da una parte e dall'altra, cioè da una parte nel primo documentario, che è di Lorenzo Tripodi, sono lette dalla parte degli vecchi inquilini che non vogliono che la città nuova, del nuovo capitalismo, specialmente della moglie del sindaco di Mosca, li distrugga, li accerchi con questi nuovi centri commerciali, con questi nuovi grattacieli. E l'altro, ancora più bello, sempre sulla stessa architettura ambientata al Narconfin, è una banda di punk che vive in maniera eccentrica e diversa la stessa realtà dei personaggi precedenti. Ieri poi è stato dedicato all'arte con dei bellissimi film, uno su Alfredo Pirri, che è un artista contemporaneo che lavora sulla visione, sugli specchi, e ancora su Anish Kapoor, che è questo artista famosissimo che ha opere in tutto il mondo, che lavora anche lui sulla vertigine della visione e sulla immagine. E poi un altro bellissimo film su Delibero e due progetti presentati. Oggi si parlerà di Roma e di alcuni aspetti diversi di Napoli e del Brasile, con un film di Fabio Massimo Iacone che si chiama Birdwatching, che è bellissimo dal punto di vista formale, e con Le città di Roma di Marco Jemolo, in cui Roma verrà letta attraverso dall'alto e quindi recuperando questa sua valenza di disegno, le periferie che vengono di nuovo viste come progetto di architettura. mentre invece sono vissute, no, come lateralità, emarginazione, insicurezza. E poi un bellissimo film sul Brasile e quindi sul vecchio e il nuovo che si contendono l'anima della nuova architettura brasiliana, finché domani si finirà con Michelucci, che è un grandissimo del Novecento, morto a più di 100 anni nel 1900, tra il passaggio, tra il 90 e il 91, con tutte le sue più grandi architetture, a cominciare dalla chiesa sulla tua strada del sole, che è forse l'opera più conosciuta del Michelucci del dopoguerra. Oh, volevo chiederti un paio di cose, perché noi ci occupiamo spesso e volentieri di documentario, soprattutto in trasmissione, e rispetto al, anche all'architettura e alle città, alcuni argomenti sono più pressanti di altri. Uno di questi è l'esclusione nelle città, la gentrificazione, il centro come una piccola roccaforte per benestanti, e poi tutto intorno l'anello via via sempre più marginale e di povertà. Ecco, è presente anche questo aspetto nel... Assolutamente sì, nel film di Fabio Massimo Iacon e negli altri film di oggi è proprio uno dei temi presenti, anche nel film brasiliano, e domani in un film bellissimo spagnolo che non ho nominato prima, che si chiama Casas para Todos, che è appunto su questo problema rispetto alla costruzione, le nuove costruzioni, alla gentrificazione, sotto però la crisi spagnola, cioè nel momento della crisi spagnola, e quindi una costruzione di città fantasma, e vedere la gente, cosa succede appunto della gente che viene marginata, come dici tu, dal centro a favore di altri ceti più solvibili, se vogliamo. Sì. Oh, l'altro aspetto che è molto presente nei lavori contemporanei è quello del consumo di suolo e il riuso poi degli edifici abbandonati. Ecco, diciamo che sul riuso c'è poco quest'anno, ma c'è un bellissimo piccolo documentario che riguarda i manufatti lasciati, costruiti e lasciati a livello di rudere del moderno, né in Campania, a Napoli e vicino Napoli, e quindi non c'è proprio presente quest'anno il tema del riuso, ma c'è presente il tema della crisi e il tema dell'abbandono, e anche dell'abbandono di bellissimi manufatti architettonici, appunto come nei due film russi, ma non quello proprio del riuso, del restauro. C'è molto la documentazione degli oggetti così in solitudine, abbandonati. Sì. Ecco, l'abbandono comunque di edifici anche non terminati fa parte del problema del consumo di suolo che l'Italia sta vivendo. Assolutamente, è un problema profondamente politico poi. Sì, sì, grandi sì. Architetture, per esempio sportive, infrastrutture lasciate a metà. Sappiamo che il nostro sud è pieno di questo genere di manufatti, magari realizzati a metà per problemi elettorali o per ragioni che nulla che hanno a che fare con la qualità architettonica. Per quanto riguarda il vostro archivio, ne state costruendo uno ed è fruibile? Dunque, noi abbiamo già costruito un archivio come DocFest, tutta questa struttura messa su da Rubino Rubini, che poi è venuto a mancare, che noi abbiamo in qualche modo ripreso, che ha funzionato dal 2004 al 2010. E questo archivio è stato dato a Ivrea, all'archivio per i film industriali, quindi è sicuramente fruibile. Ma è una novità, insomma, l'anno scorso è successo questo passaggio. Noi non abbiamo ancora formato un archivio, perché è solo il nostro secondo anno di attività, ma siamo pronti a farlo e anche a renderlo visibile, naturalmente. Ma il rapporto tra Art Doc Festival e Conversazioni Video 2014... Siamo noi. Siamo sempre le stesse persone, e Conversazioni Video è una denominazione che abbiamo preso tra tutte le varie manifestazioni che avevamo realizzato dal 2004 al 2010. Ce n'era una che si chiamava Conversazioni Video ed è un titolo che ci è piaciuto molto e che ci corrisponde totalmente, anche perché questi video sono interpretati e spiegati volta per volta da personaggi che vengono a parlare anche di progetti non ancora totalmente finiti. Per esempio, c'è stato ieri un corto sull'Aquila, importantissimo, perché il lavoro di due ragazzi in giro per il centro dell'Aquila, che hanno dato una testimonianza incredibile del degrado e di quanto l'Aquila abbia bisogno di interventi immediati, e un altro invece un progetto storico multimediale su Lina Bobbardi, che è un progetto in progress sul quale si può intervenire, chiunque può intervenire, chiunque sia interessato e abbia notizie su questa grande architetto del Novecento, morta negli anni 70, insomma famosa dagli anni 30 in poi, che ha lavorato anche in Brasile insieme a suo marito che era Pier Maria Bardi. Antonella, in chiusura ci lasci riferimenti per la programmazione per quanto riguarda la internet? Le programmazioni sono sul sito di hardrockfestival.com, sono anche su Facebook. Siamo su Facebook, chiunque può vedere il nostro sito, e abbiamo tutti i riferimenti sia della programmazione passata, in corso, e dei nostri progetti futuri. Benissimo, allora io ti abbraccio e a risentirci presto. A risentirci presto, grazie. Ciao Antonella, ciao. Antonella Greco, presidente di Hard Doc Festival, su Conversazioni Video 2014, festival di documentari su arte e architettura, in svolgimento qui a Roma, in casa dell'Architettura, dal 20 al 24 ottobre. Quarta edizione di A qualcuno piace classico, appunti di storia del cinema al Palazzo delle Esposizioni qui a Roma, partenza 28 ottobre 2014, punto d'arrivo il 19 maggio 2015. Ne parliamo con Stefano Finesi dell'associazione culturale La Farfalla sul Mirino. Stefano, ben ritrovato. Ciao Federico, ciao a tutti. È sempre un piacere. Anche il mio, grazie mille. Allora, guarda, ormai siamo alla quarta edizione, sì. E quindi diciamo è un appuntamento consolidato, il pubblico ormai ci segue moltissimo e niente, la formula è sempre la stessa, è sempre di martedì, ogni due settimane. I classici sono ovviamente un titolo più bello dell'altro e l'ingresso è gratuito per tutti come sempre, anzi già che ci sono ricordo insomma agli ascoltatori che di solito c'è molto pubblico, quindi sempre di venire un po' prima per prendere i biglietti. E niente, iniziamo martedì 28 con Lubitsch, Scrivimi fermo posta. Insomma, molti spettatori penso avranno riscoperto Lubitsch nell'ultimo anno perché è riuscito in sala To Be or Not To Be, anche Ninochka, e questa insomma è un'altra delle commedie assolute, delle vette dell'arte di Lubitsch, quindi insomma li invitiamo all'inaugurazione anche per scoprire quest'altro titolo straordinario. Stefano, per quanto riguarda le scelte della quarta edizione, quali sono stati i criteri utilizzati? Ma sì, guarda, noi siamo sempre un po' eclettici su questo programma di classici, non c'è un vero e proprio filo rosso. Il filo rosso è il puro piacere del cinema, insomma è veramente il piacere degli occhi, ecco, e si va da i grandi titoli della Hollywood classica, quindi quest'anno oltre Lubitsch avremo anche Ombre rosse di John Ford, che è veramente un intramontabile, Baciami stupido di Wilder, Operazione Cicero di Mankiewicz, quindi dalla Hollywood classica a o autori americani un po' più fuori dagli schemi come il Fuller del Bacio perverso, che molti ricorderanno perché è un cult personale di Martin Scorsese che ne parla a lungo nel Viaggio personale nel cinema americano, ad alcuni grandi registi europei, quindi avremo il Godard di Prénom Carmen, Leone d'oro a Venezia, il Melville di Senza nome, che è uno forse il capolavoro di Melville, Poi per i, diciamo, per i palati un po' più forti ci sarà la versione integrale di Possession di Zulaski, e mentre sul versante inglese avremo un Hitchcock inglese abbastanza raro, e Secret Agent, Amore e Mistero in italiano, mentre sul fronte italiano ci sono due capolavori assoluti. Uno è Ossessione di Visconti, che è, diciamo, primo vagito del neorealismo, che presentiamo nella versione restaurata dalla Cineteca Nazionale, quindi reintegrata dei tagli che vennero fatti all'epoca, sia durante il fascismo che dopo. E poi per il centenario della Grande Guerra, che sarà maggio 2015, Uomini contro di Francesco Rosi, che è uno dei grandi film antimilitaristi della storia del cinema italiano, con Gian Maria Volontè. Quindi sì, ti confesso che, ti ripeto, il filo rosso ufficiale non c'è, però c'è tantissimo grande cinema, insomma. Comunque Hollywood e un po' di Europa, insomma, la... Sì, quest'anno rispetto agli altri anni c'è la pattuglia hollywoodiana è un po' più nutrita. Ah, peraltro, ecco, dimenticavo anche un classico von Sternberg, Marlene, di Sonorata, che è uno dei loro film più clamorosi, con quello che viene considerato forse il finale più bello della storia del cinema. E non anticipo nulla per chi vorrà venire a vederselo, però insomma è una di quelle sequenze che hanno poi trasformato Marlene in un'icona totale, insomma. Senti, considerato che siamo arrivati alla quarta edizione, volevo chiederti anche se c'è interazione con il pubblico, se ha dato anche stimoli, indicazioni per delle scelte. Beh, diciamo che anche noi a volte per le scelte ci regoliamo anche in base alla risposta del pubblico, che a volte è imprevedibile, a volte, per esempio col tempo ci siamo resi conto, un genere che purtroppo sembra meno amato dal pubblico di oggi è il musical, ad esempio, o anche il western è sempre un po' più difficile, perché si vede con il tempo è un genere che ha perso un po' di presa. Malgrado questo, Ombre Rosse era praticamente inevitabile, avendo trovato una magnifica copia a 35 mm. Perché, sai, adesso faccio una piccola divagazione: noi siamo rimasti tra i pochissimi ormai a programmare rigorosamente in 35 mm. Questo ovviamente ti lega anche un po' le mani alla disponibilità delle copie, e anche quello è un criterio di cui inevitabilmente teniamo conto, però. Sì. Rivederli in sala, insomma, in pellicola è veramente un'altra cosa in questi tempi di trionfo del digitale, insomma. Ecco. Su questo siamo degli inguaribili passatisti, ma non solo per spirito passatista, ma perché la pellicola si vede meglio, insomma. Ecco. C'è poco da fare. Senti, sì. Proprio a questo proposito, ti chiedevo qual è il rapporto rispetto alle copie restaurate? E guarda, di restauri ti ripeto, c'è Ossessione di Visconti. Ci sarà appunto Possession, è una copia penso unica in Italia, perché è la versione integrale del film che, forse come sai, venne distribuito tagliato di circa 20 minuti in Italia. Questa è una copia che è in archivio alla Cineteca Nazionale, che è ancora integrale con le scene anche più forti, insomma, del film, che peraltro uscì tagliato non solo in Italia ma in tutta Europa. E niente, no, tutto qui. Tutto qui. Senti, ci dai indicazioni internet per la programmazione? Sì, e ovviamente c'è il sito di Palazzo delle Esposizioni, palazzoesposizioni.it, e anche il sito della Cineteca Nazionale, fondazionecsc.it. Io sì, vi ricordo che ovviamente questo è un evento sempre organizzato dalla Cineteca Nazionale, Palazzo delle Esposizioni e la Farfalla sul Mirino. C'è anche il sito della Farfalla sul Mirino, lafarfallasulmirino.it, e anche la nostra pagina Facebook. Benissimo. Stefano, io ti abbraccio e a risentirci grazie presto. Mille a te. Un abbraccio, a presto. Ciao ciao. Stefano Finesi dell'Associazione Culturale La Farfalla sul Mirino, per parlarci della quarta edizione di A Qualcuno Piace Classico, appunti di storia del cinema al Palazzo delle Esposizioni qui a Roma dal 28 ottobre 2014 al 19 maggio 2015. Bene, ce l'abbiamo fatta anche stavolta, ma anche stavolta è sul treno. Mario Martone, ci senti? Sì, vi sento, perdonatemi se sono sempre sul treno, ma naturalmente, anzi, il treno sta proprio arrivando, quindi diciamo potete immaginare cinematograficamente la scena. andando da Padova a Torino, ogni sera siamo in una città diversa a presentare il film, quindi eccoci, insomma, del resto siamo contenti di farlo, è stancante, ma insomma i risultati sono stupendi, impressionanti, e dunque eccoci qua. Ecco, proprio da questo vorrei partire, sui risultati, la prima settimana di programmazione, Mario, cosa ne dici? Io devo dire, ho sempre avuto fiducia in questo film, nel fatto che il film potesse, insomma, avere un pubblico vero. L'aveva avuto già, noi speravamo, nonostante le 30 copie con cui era uscito, era riuscito a conquistarsi appunto un pubblico, un'attenzione reale, e questo è un film anche diverso, noi speravamo, cioè meno lungo, insomma, come dire, che non ha bisogno di... che per essere visto non ha bisogno di conoscere la storia italiana dell'Ottocento, insomma, ecco, la storia di un'anima, quindi ci contavo, però certo i risultati vanno oltre ogni immaginazione, insomma, e diventano una cosa anche abbastanza clamorosa, insomma, ecco, in questo paese in cui sembra sempre che il pubblico debba essere considerato come colui che butta tutto al peggio, ecco, evidentemente non è così, cioè le persone sono migliori, diciamo, di chi pensa per loro. Senti Mario, allora, per chi ci ascolta, chiaramente stiamo parlando del film Il Giovane Favoloso su Giacomo Leopardi. Per chi ci ascolta, appunto, ti volevo chiedere come lo descriveresti in breve, con qualche tratto. È un film, diciamo, apparentemente biografico, perché dico apparentemente, chiaro, è un film biografico nel senso che c'è la vita di Giacomo Leopardi, però la cosa che a noi, diciamo, premeva moltissimo, dico noi, nel senso io, la sceneggiatrice e poi Di Maio, tutte le persone che hanno lavorato al film e naturalmente Elio Germano che lo interpreta, era quella di... non era un interesse per la biografia in senso aneddotico, poiché tutto quello che Leopardi scrive nasce dalla propria esperienza personale, per così dire autobiografico, e questa è una cosa molto particolare per uno scrittore, un poeta di primo Ottocento, e cioè quello che noi andavamo a cercare era proprio il rapporto tra vita e poesia, tra vita e scrittura, e quindi quello credo che come dire, il flusso, ecco, di immagini e di suoni che è questo film, come dire, da un lato ha un racconto, quindi naturalmente ha dei personaggi, ha, come dire, una vicenda che è quella della vita di Leopardi con tutte le sue implicazioni sentimentali, e però poi dall'altro lato quel che conta è come tutto questo si trasforma in poesia, insomma, evidentemente, insomma, questa alchimia deve essere riuscita, insomma, ecco, quindi diciamo il film è un po', ripeto, insomma, un'avventura, ecco, un po' per chi lo vede, insomma, è un viaggio, nel senso letterale, nel senso che si comincia nella piccola città di Decanati, nelle Marche, si conclude nella Napoli dell'Ottocento sotto il Vesuvio, passando per Firenze, per Roma, ed è appunto, diciamo, un viaggio nella realtà, nel paesaggio italiano, però chiaramente il viaggio di un'anima. Senti Mario, rispetto all'immagine classica scolastica che abbiamo di Giacomo Leopardi, c'è una figura sicuramente costretta dalla realtà di provincia e dall'amore e dalle restrizioni familiari, però esprime anche una grossa curiosità e fame di vita. Io infatti non abbiamo mai diciamo, l'immagine di Leopardi poeta infelice perché malato, non ci ha mai convinto, ecco, quello che, diciamo, chi ama Leopardi trova Leopardi è la sua fame di vita, la sua, come dire, la sua vita, anche la sua ironia straordinaria, a volte addirittura la comicità, cioè, per essere malato c'è un libro che è, diciamo, il tessuto di Leopardi, comico, straordinario, è un ribelle. Ribelle quando è ragazzo, sempre, come dire, ha una brucia la sua vita, una temperatura altissima, le sue illusioni, che siano in campo d'amore, in campo appunto di gloria poetica, di, diciamo, sono sempre altissime. Naturalmente nel bruciare, come dire, a questa temperatura conosce anche la distinzione, naturalmente arriva a capire lucidamente che tutto è nulla, perché probabilmente non ci sono delle nozioni religiose, ideologiche, perché comunque la responsabilità individuale, l'esperienza della vita colta in ogni momento, l'amicizia, cioè la solidarietà tra gli esseri umani, cioè sono cose che questo ragazzo malato, così strano, che scriveva queste cose, che al fine di una data che non poteva uscire, spesso tra 20.000 litri, è un miracolo dello spirito, Mario, ti sto un po' perdendo, non ti sentiamo benissimo. Comunque volevo chiederti, Elio Germano, che tra l'altro è un grande amico di questa emittente, volevo chiederti com'è stata la scelta della sua figura come attore e anche che tipo di lavoro avete fatto insieme. Elio Germano è un attore magnifico al quale ho pensato subito per il film, perché sia per il suo temperamento bello, la sua sensibilità, forte, che stavo sotto per il personaggio, ma poi è stato straordinario scoprire anche un grande compagno di avventura nello studio di Leonardo. Elio ha studiato diversi mesi tutto quello che c'era da studiare, e quindi quando giravamo eravamo anche chiaramente molto liberi, perché avevamo una conoscenza del terreno, no? Quindi volevamo fare il film molto approfondita, e questo ci ha aiutato a essere liberi, e in meglio la cosa che lì questa, cioè la stare insieme di rigore e di libertà creativa, insomma su questo ci siamo trovati. Il film, che è una sceneggiatura molto definita, molto precisa, che tra l'altro è stata appena pubblicata, si trova in libreria, diciamo, come dire, una sceneggiatura che continuamente sul set viene da reinventata, organizzata, rivissuta attraverso il rapporto con Elio. Sì, che credo, per quello che ho visto, insomma, sia una delle sue interpretazioni più alte in questa occasione. Mario, una domanda volevo farti rispetto. Allora, alcune scene del film sono state girate al Teatro Valle Occupato. La presentazione, una prima anteprima, anche se solo interna per i ragazzi del Piccolo Cinema America, l'hai fatta lì a Trastevere, accanto al Cinema America, ormai sgomberato, però insomma hanno un altro spazio adesso quei giovani. Ecco, due esperienze al centro di Roma, una portata avanti dai lavoratori e lavoratrici dello spettacolo, un'altra da giovanissimi, una fascia d'età che va dai 14 ai 22 anni, studenti, però tutti e due spazi legati alla cultura e dal basso, delle persone che si muovono per sostenere la cultura senza un aiuto istituzionale, anzi. Ci sei? Ho sentito la domanda. Sì, volevo chiederti, ecco, come hai vissuto questa esperienza e anche la tua voglia di essere lì. Ma guarda, per me è sempre molto importante cercare di parlare con pubblici che fuori anche dalle istituzioni. Ricordo che anche noi credevamo, per esempio lo presentammo a Napoli, una serata straordinaria, ai banchi nuovi, diciamo, ai disoccupati organizzati, ai banchi nuovi, dove appunto c'è una serata che era, perché sono questi film che vogliono essere politici più che storici, essere politici si deve considerare la politica in senso ampio, cioè appunto polis, dunque città, dunque cittadini, e cittadini non sono soltanto cittadini che vengono, come dire, inquadrati professionalmente, ma sono anche le persone che invece cercano all'interno di istituzioni di aprire, no, dei territori. Cioè, il cinema America occupato è un'esperienza, cosa vogliamo dire? Sono ragazzi giovanissimi che hanno tenuto, che si battono perché il cinema continua a essere cinema. Cioè, è, come dire, una cosa anche così semplice, così chiara e così condivisibile, no? Quindi insomma, mi sembra che veramente bisogna come dire, alimentare ogni possibile spazio di socialità, di incontro, di dialogo e far capire molto chiaramente che la politica non è soltanto quella che arriva dall'alto, cioè la politica deve essere dialogo tra cittadini di, come dire, che hanno, diciamo, posizioni diverse, ecco, perché altrimenti, cioè, la democrazia finisce nel momento in cui c'è solo una verticale, insomma, ecco, bisogna assolutamente tenere questa orizzontalità. Leopardi, che dell'orizzontalità della catena umana appunto ha fatto messaggio universale, mi sembra appunto, insomma, o lo sentiamo in questo modo, altrimenti resta solo letteratura. Tra l'altro la Caruana Teatro Valle tra qualche minuto farà la sua trasmissione settimanale qui in radio. Mario, io t'abbraccio e speriamo bene per questo continuo di programmazione del Giovane Favoloso. A risentirci alla prossima. Ciao, grazie. Ciao. A presto, ciao Mario. È tutto per Visionari di questa settimana. Torniamo giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15. Le informazioni le trovate sia sul sito internet della radio ondarossa.info alla voce trasmissioni Visionari, sia sulla pagina Facebook, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Alla settimana prossima.